Ethno Chic, musica ad indicazione geografica protetta. Musica con indicazione geografica protegida. Musique avec indication géographique protégée. Music with a protected geographical indication. Medicine chest, meditando manian hood her back, spread across a rolled top desk. The monkey water played on the overhead fan, the painted tanker blue if you pay. I got a telephone call from Istanbul, my baby's gonna go home today. Will you sell me one of those? Shave my head, get me out of town is what Firebird said. Never trust a man in a blue trench coat. Never drive a car when you're dead. Saturday's festival, Friday's a gym. Dye your hair yellow and raise your ear. Follow me to beauty's on track, great road. I got to wear the head of mine. Baby done so. My baby done so. My baby done so. Medicine chest, medicine medium utter bag, spread across a roll top desk. The monkey water played on the overhead fan, the painted tanky blue is the pain. I got a telephone call from Istanbul, my baby's coming up today. Will you serve me one of those if I shave my head? Get me out of time is what Fireball said. Never trust a man in a blue trench coat. Never drive a car when you're dead. Saturday's festival, Friday's a day. Dye your hair yellow and raise your ear. Follow me to beauty's on track, great road. I got to wear the head of mine. Baby dance my baby dance my baby dance. Bentornati qui a Ethno Chic su Radio Città del Capo. Buonasera Stefano. Buonasera Vladimiro, bentornati a tutti carissimi e amatissimi radioascoltatori. E stasera chiudiamo un po' questo trittico del riepilogo, che poi è stato un modo anche per riambientarci noi nello studio è un po' con la radio. Esatto, io sto imparando tante cose anche quest'anno osservando Vladimiro. Oggi ho avuto l'onore di mandare la sigla con un click del mouse. È stata un'emozione esatto, grandissima. Questo vuol dire anche che ci riprendiamo un po' i nostri spazi, sì, ci ricordiamo le cose, insomma. Tanti saluti ancora a Babe e Azul che sono stati con noi le scorse stagioni, insomma. Ciao ragazzi. E niente, facendo questo riepilogo, insomma, abbiamo visto che molte cose le abbiamo dovute un po' selezionare, beh, altrimenti avremmo chiaramente, anche facendo un brano da ogni puntata, insomma, sarebbero state veramente due stagioni piuttosto lunghe sempre. Insomma, avremmo potuto andare avanti molto, ma abbiamo già della legna da buttare sul fuoco, quindi ci soffermiamo soltanto su alcuni passaggi. Soprattutto abbiamo privilegiato sicuramente i nostri ospiti che sono passati qui dalla radio, chi a suonare, chi a presentare un disco, come per esempio la cantautrice e cantante che abbiamo appena ascoltato, Emmanuelle Sigal, che questo era il suo table, dal disco Table Rase, era questa Telephone Call from Istanbul. Abbiamo sentito dei suoni particolari, appunto, che ricordano molto gli arrangiamenti, appunto, del grande Tom Waits. Eh sì, è questo disco che deve essere di 2 anni fa, sì, è del 2017, adesso intanto è uscito il disco nuovo, mi pare proprio quest'anno, di Emmanuelle Sigal, e mi pare che è stata qui anche proprio a presentarlo qualche mese fa, qui alla Radio Città del Capo, da cui vi trasmettiamo, negli studi di Bologna. E Emmanuelle, che in questo disco aveva la presenza prestigiosa di Marc Ribot alla chitarra elettrica, e oltre che i musicisti del gruppo che l'accompagna quando fa i concerti qui in Italia e che ha suonato anche nel disco. Altri musicisti tra Bologna e ormai Barcellona, perché Rocco Casino Papia si è trasferito ormai a Barcellona e quindi comunque spesso da queste parti, sono gli Arduo, questo duo c'è questo gioco di parole tra Arduo e Arduo, loro sono in due, sono Alberto Capelli e Rocco Casino Papia, che sono due chitarristi che già basse sfere, con grande esperienza musicale sulle corde, e qui si sono un po' sbizzarriti. Addirittura Alberto Capelli in alcuni brani suona uno strumento indiano, la Moanvina, un disco che hanno proprio scartato nello studio 1 di là del, non era una diretta registrata, infatti mi lasciarono anche una dedica, insomma, numero 1 per... Prima leggevi Vladimiro che è un prodotto del 2019 questo. Esatto, quindi questo è nuovo, un prodotto nuovo, fresco di stampa, appunto, venne aperto proprio ancora fumante, viene spacchettato qua, e sono brani di Alberto Cappelli, di Rocco Casino Papia, a parte la Danse du Bonheur di John McLaughlin, e Sego Alderado Aderaldo di Gilberto Gismonti. E andiamo a sentire un brano di Rocco Casino Papia che si chiama Sale. Thank you. questo quindi era questo brano Sale degli Arduo, duo bolognese di Alberto Capelli, Grotto Casino Papia, che insomma nel tema evocava molto atmosfere quasi di questi autori francesi pre-simbolisti, no? Tipo Fauré. Insomma, e comunque la qualità della registrazione è ottima, devo dire, molto bella. Eccelsa, e poi devo dire una cosa che avevo apprezzato anche in studio, proprio che c'è questo, qui ci sono, c'è questo fogli librettino volanti, con questo disegno insomma che ha fatto questo loro amico, che è veramente bellissimo, che questa specie di, è un pesce cane, ecco cos'era, mi ricordavo. Ah, quindi e Sale, poi c'è giustamente si dice questa citazione di dell'Arduo, viene da una frase di Antonio Gramsci: sincerità, spontaneità, originalità, ecco ciò che è veramente difficile e arduo, da cui il nome del gruppo. Avete visto come una frase fa generare un lavoro complesso? Sì, interessante. A volte può essere questo, può essere suggestioni un po', e forse chissà, proprio il discorso che facevamo del rapporto tra letteratura e musica, no? Che la letteratura dà simbolismo. E altre immagini, sicuramente queste evocazioni sono quelle che nutre questo gruppo interessantissimo, è ormai radicato nel panorama bolognese, ovvero sia i Lame da Barba, che sono dei ragazzi molto giovani, però insomma ultimamente anche in Veneto stanno riscuotendo molto successo. Sì, beh, quello anche per un legame storico con la città di Venezia, dove si sono esibiti varie volte. I Lame da Barba, i quali anche loro hanno composizioni, soprattutto loro, che evocano però un rapporto tra passato e presente, anche tra linguaggi musicali delle varie sponde del Mediterraneo. In questo caso ne andiamo a sentire in un brano che non è forse fra i loro più eseguiti, cioè Anonimo in Do minore, e andiamo a sentirli. Thank you. questi erano quindi i Lame da Barba con la loro anonima in do minore dal disco La Muta Vita, che avete sentito, il disco anche premio Loano, tra i premi Loano per la musica d'autore, insomma, musica da film, sembra, no? Quasi loro sì, a metà si tra fanno la musica tradizionale, guidare la molto musica da film, dalle immagini, ispirazione. E anche c'è, questo ci tiene molto Francesco, giustamente c'è qualcosa, anzi abbastanza, della tradizione mandolinistica della Sicilia, di cui poi certo, uno degli autori, Francesco Paolino, è anche originario. E con questo siamo nel pieno del Mediterraneo, ci spostiamo un pochino più a oriente, tra un po' dalla Sicilia spostiamo un pochino a nord, tra la Grecia e la Puglia, a quella che è la tradizione greca del sud Italia, insomma, delle popolazioni che nella loro lingua, nella loro cultura, nei loro suoni hanno mantenuto le radici della comune origine della Magna Grecia, giusto? Luigi Garrisi, che adesso ascolteremo, ha scritto anche un libro che probabilmente alcuni di voi conoscono, che si intitola Mala Agapi. Che poi Mala Agapi sarebbe anche il progetto musicale che da anni comunque... Ho avuto l'onore anche di suonare con loro quest'estate al Museo della Musica. Abbiamo raccontato questo viaggio nella lingua greco-salentina, tratta dal libro, e è una lettura anche molto molto diversa dal solito, ecco, anche perché non abbiamo molto questo suono in mente, anche perché lo stesso Luigi mi ha detto che è una lingua come tante minoranze linguistiche che si stanno piano piano perdendo, come la lingua croato-molisana ad esempio. Esatto, e che sono tutte minoranze, insomma, come quella latina, come quella friulana, insomma, riconosciute dalle leggi del nostro Stato, insomma. E questo libro è edito da Anima Mundi Edizioni con vari contributi, appunto un CD allegato da cui andiamo a sentire Lycabettus, che appunto, per chi non lo sapesse, è una collina tra le tante colline che ci sono ad Atene, da cui si può ammirare una grande vista sull'Acropoli, su tutta la città di Atene. Τα πουατσιλά με αμάλι χώρα όρια και όρια σαν όρια και ατέρα ήτανε τα μάτια μου άσπρο φιούρο μυριστό στον ανέμο δυνατό έχαζα το μυαλό. Εκκλησία έχει έμπικα κρυφά εσέσον είχε άνεμο γιουρίζα τα μυαλά κανόνιζα εσύ χώρα πάλε ποτζίτσερο μα πάλε στε γελίτσι στα μάτια μου νητά. Σα τερμό μερό τσε τάλασσα κρουζά φινό το χώμα σαν το χιόνι ο πλέον ατσιλό σαν τραγούδι ο πλέον μυριστικό σαν φωνία σε κάνει μάνα σαν τα γέλια τα παιδάκια σαν μια σκότεινη νεμέρα τη γιουρίτσι νύχτα φωτιά σαν γιουρίτσι νύχτα φωτιά σαν γιουρίτσι νύχτα φωτιά. C'è Iurizzi, nicta fotia. Στο να σιμότσερο σε νύτα πρωί το λούστρο τι πιάνει την ψυχή από στον ίζερα να γυρίζω για να έρθει να ψυχνιώ να τραγουδίζω από στον ίζερα να γυρίζω για να έρθει να ψυχνιώ να τραγουδίζω σε γυρίζει νύχτα φωτιά σε γυρίζει νύχτα φωτιά να γυρίζει νύχτα φωτιά. noce talasa, sa koza fino to homa, sa to hjori opleo acido, sa tragudi opleo miristiko, sa fonija cekali mana, sa tajeja ta pedača, sa mjesko ti nine mera, ti jurici nikta fotja. Ša jurici nikta fotja, ša jurici nikta fotja, ša jurici nikta fotja. E questo quindi era Licabettus di Luigi Garrisi. Come tiepida acqua del mare, come terra dorata, come la neve più alta, come il canto più odoroso, come una voce di madre, come risa di bambini, come una giornata scura che diventi notte infuocata. Questa è una parte del testo. Alcuni componenti delle Lame fanno parte anche del gruppo Mala Agapi. Abbiamo sentito l'irrequieto strumento di Stefania anche. Sì, poi praticamente da qua, sì, parlando sempre di strumento, improvvisazione, rapporto tra tradizione, improvvisazione, tra origini e lontananze, distanze, arriviamo poi direttamente dall'altra parte del mare, praticamente si guardano in faccia, e l'Epiro, da dove Alexis Tsumbas, questo violinista, parte per arrivare a New York negli anni 10, dove vivrà fino al 1946, anno della sua scomparsa, personaggio non troppo conosciuto, se non che qualche anno fa, in questa riscoperta di cui l'anno scorso abbiamo fatto qualche puntata su questo discorso della riscoperta di questi dischi 78 giri che facevano parte di queste registrazioni che negli anni 20-30 abbiamo di musicisti emigrati dall'Europa, soprattutto dall'Armenia, dalla Grecia, insomma dall'est Europa e dal sud dell'Europa, seguito a guerre, carestie, insomma, soprattutto dopo la prima guerra mondiale e le conseguenze della prima guerra mondiale, cui poi ribadiamo si vedono ancora adesso gli effetti, tanto appunto armeni, greci, eccetera, eccetera. E questo lavoro da parte di alcuni appassionati che hanno, come questo Christopher King, che ha appunto con la sua Long Gun Sound Production della Virginia negli Stati Uniti, è andato a ripescare questi 78 giri ormai dimenticati di questi artisti, appunto, che venivano registrati, perché in quegli anni, negli anni 20, 30 e 900, c'era mercato tra appunto gli immigrati delle città, e tanto che appunto abbiamo visto Marika Papagika, che aveva aperto il primo locale greco dove si faceva ribetico a New York, e lei forse è il personaggio più famoso, però appunto c'erano personaggi non meno importanti come questo Alexis Tsumbas, che ci ha lasciato diverse registrazioni in cui, diciamo, c'è molto spesso c'è il rapporto tra la musica che aveva ascoltato e suonato magari anche da giovane, e poi la sua reinterpretazione con le sue improvvisazioni, in cui si rispecchia anche il lamento, insomma. Per infatti questo disco si chiama Lamento per l'Epiro, e andiamo a sentire un brano che si chiama Sirto Stadio. Thank you. questo era Alexis Tsumbas dall'Epiro. Per salutare un po' il Mediterraneo, mettiamo proprio la canzone omonima di Serrat, che l'anno scorso era l'anno scorso era la stagione, ma sempre quest'anno. Infatti, lui è girato ha fatto un tour per ricordare i quinquennari, questo disco molto importante, che fra l'altro venne ripreso in parte da Gino Paoli, una versione con traduzione in italiano. Andiamo a sentire la canzone omonima, e gli arrangiamenti erano anche questo di Gian Piero Reverberi, che insomma poi in quegli stessi anni curava il disco di André, Tutti morimmo a stento, insomma era abbastanza caratterizzante. Porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea, jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujará al mar mi barca con un levante otoñal, y dejad que el temporal desguace sus alas blancas, y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Quindi dal Mediterraneo andiamo. Che bella questa canzone. Salto. Scusate, mi ha molto emozionato l'arrangiamento. Stavamo parlando adesso con Vladimiro. Sì, era ai tempi 69, 70, erano gli anni in cui iniziavano poi anche qui in Italia cantautori tipo Fabrizio De André. Forse l'anno prima o quello stesso anno, 69, sempre Reverberi gli aveva arrangiato Tutti morimmo a stento. E nel 70 Buona Dovella invece non c'erano già il primo gruppo della PFM che suonava, non mi ricordo chi è l'arrangiatore di quel disco. Comunque sì, è stato sicuramente anche D'André uno dei primi in Italia a fare da cantautore a fare degli arrangiamenti particolari. Adorniamo le canzoni di tanti fiori. Ora dal bacino del Mediterraneo andiamo verso un polmone. che è l'Amazzonia. Allora, il prossimo ascolto... Dovrebbe essere un polmone, poi di fatto. Il polmone... adesso non stiamo a parlare, purtroppo, di notizie. Sì, però dove caschi, caschi male. Cioè, ma sì. Veramente. Parli di Turchia. Kurdistan, l'altra volta sarà... Insomma, qualsiasi cosa, c'è qualche tragedia in corso. E noi cercheremo di, insomma, esorcizzare, avere, mettere questo disco con effetto apotropaico. Il signor Philip Glass un giorno è andato a vedere un concerto di un gruppo che si chiama Wakchi, scritto Wakti. È un gruppo brasiliano che usa esclusivamente strumenti fabbricati da loro da materiale di scarto. Ecco, un altro discorso importante. Wakchi è una divinità della foresta amazzonica molto diffusa nella zona del Rio Negro. È una divinità tutta piena di buchi da cui passa il vento e ovviamente come i flauti, come tutti gli strumenti a canna. E l'uomo l'ha ammazzato, però... dove è stato ammazzato crescono le palme e le canne, da dove l'uomo però per riportare in vita lo spirito del suono, diciamo, costruisce flauti. E adesso andiamo a sentire un brano. Paru River. Thank you. E questo era quindi Paru River degli Opak Tea, un brano di Philip Glass. E per restare un po' in questa atmosfera, sempre in Brasile, dove appunto ci abbiamo dedicato l'anno scorso diverse puntate sul Brasile, sulle diverse tradizioni, abbiamo visto che è molto più ricco di quello che ci aspetta. Ci sono sì le marchinhas di carnevale, c'è cioè la bossa nova, però insomma tante cose. E tra le varie puntate, una puntata dedicata a questo scrittore Ayano Suassuna, e queste sono le musiche del film Acto da Compadecida, che è un film tratto da uno dei suoi più famosi romanzi. Dalle musiche per il film Acto da Compadecida, sul romanzo di Ariano Suassuna, invece andiamo a ruota proprio con un altro dio, che è Xangô, il dio del tuono, composizione di Baden Powell e Vinicio de Moraes. E anche qui abbiamo un set di percussioni, il flauto, che abbiamo sentito anche nel pezzo che abbiamo appena ascoltato, e buon ascolto. Sì. Thank you. E qui c'era un po' di tutto, dalla tradizione afro-brasiliana con questi riti, insomma, del nord, così, che sono quasi un sincretismo di momenti religiosi e così anche di comunione, che durano un po' anche tutto il giorno, anche questa musica di danza che troviamo in varie parti, con influenze, molte influenze europee miste con tradizioni indigene, che è un po' una caratteristica della musica strumentale di tutto il centro e Sud America, ma anche potremmo dire anche Nord America, basta pensare al Zydeco o al Cajun, piuttosto che la musica country, bluegrass, insomma. E quindi andiamo a sentire un brano che si chiama Ausência, ma non è quello che pensate voi, ma è piuttosto questo brano di moda da viola, questa cattira danza popolare suonati da questi suonatori, questo duo Vieira e Vieirinha. Eu fiquei triste e nervoso, meu corpo pegou a tremer. Já houve oportunidade, eu não quis esclarecer. A tua infelicidade não quero prevalecer. Que algum dia não é longe, vós pode se arrepender. Eu já sou matriculado, vós deve reconhecer que um dia na nossa vida modifica de prazer. Os planos contrariados, que alegria pode ter? Triste sorte sem futuro, quem nasceu pra padecer? Um dia nós fica ausente, notícia eu quero saber. Me mande uma carta escrita com a letra do ABC. Pra mim ter recordação e de vós nunca esquecer, pra não cumprir meus intentos, só se você não querer. E per chiudere, perché ormai sono le 20:58 e quindi vi dobbiamo un po' salutare, e vi diamo appuntamento non al 24 ma al 31, dove insomma continueremo con la nostra programmazione. Per salutarvi, un piccolo memorandum: abbiamo visto molte figure di donne ricercatrici, etnomusicologhe, che non sono purtroppo così conosciute come i colleghi maschi, insomma. Di solito anche questo è un ambiente molto maschile. Per esempio, l'anno scorso abbiamo visto come Leda Valladares abbia dato un grande contributo non solo come ricercatrice, ma anche come insegnante di musica insomma, nella cultura argentina e rioplatense. In questo caso non è una ricercatrice che fa ricerca nella propria terra, ma che gira in molti paesi. È Rieta Iurchenko, che appunto si capisce veniva appunto dall'estero, non mi ricordo se dalla Russia o dall'Ucraina, e ha fatto ricerche un po' per caso, ha iniziato a fare ricerche poi collaborando anche con varie istituzioni in giro per il mondo, anche in Italia, fra l'altro, in Romania, Cecoslovacchia, fino ad arrivare poi in Messico e Guatemala, dove ha fatto delle importanti ricerche sulla musica delle popolazioni indigene, e quindi in tutta la loro ricchezza, anche non solo per le fiesta, solo delle situazioni processionali, ma anche, per esempio, composizioni come questa Flor della Canela, con cui vi salutiamo. Allora, arrivederci a tutti ancora. Ci diamo appuntamento non al prossimo giovedì, ma al 31. A quello successivo. Buonanotte. Buonanotte. Marita.